Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Appena Babbo gli si avvicinò per stimolarlo a salire, egli, come è naturale quasi per qualsiasi uccello, spiccò semplicemente il volo, portandosi direttamente in cima alla rampa. Sono Stefano, vivo a Barbiano di Cotignola, agente di commercio, speleologo. Le mie donne sono Greta ed Elisa, che sono mia figlia e mia moglie. Io appena ho letto la storia di Stefano mi è venuto in mente, come spesso mi viene in mente quando si parla di animali e di affezione agli animali, un libro di cui vi ho parlato più di una volta che si chiama La mia famiglia e altri animali, scritto da questo zoologo esploratore inglese che si chiama Gerald Darrell negli anni 50, che racconta della sua esperienza a Corfù da bambino con la famiglia alla scoperta dell'isola e degli animali. Se non l'avete mai fatto, compratelo ad Elfi, La mia famiglia e altri animali. Se amate gli animali, se amate la Grecia e quella zona splendida che potete immaginarvi com'era nel 1940-1950, dedicategli qualche giorno, è un libro meraviglioso. Buongiorno a tutti e buon primo maggio in diretta da Radio 24, questo è Voi siete qui, io sono Matteo Caccia e ogni giorno raccontiamo una storia. Il programma è fatto così: dalle 16 alle 16.30 tutti i giorni un episodio della vita di uno degli ascoltatori di questo programma, di questa radio, che ha voglia di condividerlo con gli altri, cioè ha voglia di prendere quel pezzo di vita, proprio un episodio, una piccola storia, un inizio, uno sviluppo, una fine. Ero qui, è successo questo ed è finita così. E ho voglia di mandarcela. Voi siete qui, @radio24.it, e noi ne facciamo una puntata, ne facciamo un programma. E da 3 anni in onda stiamo componendo una sorta di grande mappa di questo paese. Poi in realtà ci sono molte persone che vivono fuori e ci mandano comunque storie. Ma una sorta, sì, di mappatura di chi siamo e della qualità di chi siamo attraverso le nostre storie. 349-238-6666, se avete voglia di mandare un sms e raccontarci anche voi se mai vi è successo di affezionarvi, come accade a Stefano, di un animale particolare. Siamo un cane, un gatto è troppo facile. Facciamo un animale complicato. Nel suo caso parliamo di un animale che è il piccione, banalmente, il piccione torraiolo, come lo definisce lui giustamente per l'esattezza. Torraiolo con la O, anche se sembra strano, insomma, parlavo con la regia ovviamente, non mi correggo da solo. Piccione torraiolo, che è il piccione che vedete tutti i giorni nella vostra città e che spesso è illegale da nutrire e tenere con sé. Questa, diciamo, è una piccola storia che ha a che fare invece con quell'oggetto, con quell'uccello, perdonatemi, con quell'animale. Se vi siete mai affezionati a un animale particolare, oggi parliamo di quello. Voi siete qui Radio 24, il nostro profilo Facebook. Voi siete qui R24, il profilo Twitter. Sandro scrive: dopo una vacanza in Madagascar ho letteralmente perso la testa per i lemuri. Ovviamente non me li sono portati a casa, ma ogni tanto faccio un giro su Google Immagini per guardarmeli. Elisa: mi sono affezionata ad un ragno che ha vissuto un paio di giorni nella mia prima stanza in affitto a Roma quando ero studentessa. In qualche modo mi teneva compagnia. Ascoltatevi questa puntata, ascoltatevele tutto se avete voglia in podcast, andando a scaricarvele dal nostro sito, e andate a guardarvi i nostri profili dove c'è tutto quello che magari vi siete persi se è la prima volta che ascoltate questo programma. Se invece siete lì e magari state viaggiando o siete all'aperto a godervi questa giornata, ascoltatevi la storia di Stefano e soprattutto la storia del piccione Gedeone. Babbo quel giorno stava lavorando in negozio. Era una specie di piccola libreria specializzata in tematiche professionali. In quel momento non c'erano clienti e stava scrivendo alcuni documenti quando, con la coda dell'occhio, gli parve di vedere qualcosa entrare dalla porta della vetrina, che era spalancata, data la bella mattinata di sole. A quel punto Babbo non poté fare a meno di girarsi e prendere atto che quello che sarebbe diventato poi Gedeone esisteva in carne ed ossa ed era entrato scavalcando il gradino d'ingresso. Lo stava tranquillamente osservando dal centro della vetrina. Anzi, pareva quasi che volesse dire: «Ehi, non ti sei ancora accorto che ho fatto un incidente con un'automobile? Ho un'ala a pezzi e mi serve urgentemente aiuto?» In quegli anni uno dei sogni di Babbo era la laurea in veterinaria. In quel caso non serviva la laurea per diagnosticare una brutta serie di fratture esposte all'ala di quel giovane, strano ma simpatico esemplare di piccione terraiolo. Babbo sapeva bene che cosa fare. Allestì un'accogliente ed areata scatola di cartone dove il paziente potesse stare riparato e tranquillo. Lo prese delicatamente, anche perché questi non oppose la minima resistenza. E dopo averlo deposto all'interno di quell'ambulanza sui generis, inforcò il motorino che utilizzava per effettuare agevolmente le consegne. Meta l'ambulatorio veterinario del dottor Massimo, all'epoca patologo aviare abbastanza noto in città, che distava pochi minuti dal suo negozio. Subito il dottore fece una smorfia dicendo: proprio una gran brutta ferita. E poi sentenziò: ci proviamo, ma non garantisco nulla, è molto probabile che non riprenderà mai più a volare. Insomma, non era una grande prospettiva, ma almeno era un tentativo. Questa è una delle storie vere che raccontavo a mia figlia prima che andasse a dormire, e la protagonista di questa storia in realtà sono io, che parlo in terza persona. Questo babbo sono io. La sera, arrivando a casa a qualche chilometro dalla città, adagiata sulle prime propaggini collinari dell'Appennino emiliano, si pose il problema di come sistemare Gedeone. Babbo a livello di manualità è sempre stato abbastanza dotato. In pochi minuti allestì una sorta di voliera con quello che aveva in casa: una vecchia porta in legno, un po' di rete da polli, un paio di manici di scopa e qualche asse di legno. Posizionata sulla grande terrazza adiacente il tetto della casa, lì fu il momento di trasferirvi Gedeone. I giorni successivi trascorsero tranquillamente sulla medesima falsariga, con Gedeone evidentemente tutto preso dall'obiettivo di riprendere forze e peso. Gedeone era diventato un po' l'attrazione di tutti gli uccelli liberi della zona, con quella sua ingombrante ala inutilizzabile che lo rendeva abbastanza buffo. Dopo 3 settimane giunse il fatidico giorno della rimozione della fasciatura. Forse Gedeone no, ma babbo era abbastanza in apprensione, memore delle parole poco speranzose del veterinario. Anche in questo caso l'animaletto fu docile e collaborativo. Terminato il lavoro, si presentò lo spettacolo poco edificante di un'ala penzolante con un grosso gnocco di sangue raggrumato a livello dell'articolazione, ancora gonfia e tumefatta. Babbo e il dottor Massimo si scambiarono uno sguardo perplesso e non ci fu bisogno di aggiungere altro. Certo, dopo tanto tempo immobilizzato, anche il tono della muscolatura dell'ala era pressoché a zero, ma questa si presentava davvero messa male. But the words you want to hear, you will never hear from me, I'll never say happy anniversary, never stay to say happy anniversary, so I think I need a new heart. Tornando a casa, babbo rifletteva un po' pensieroso sul da farsi, soprattutto se le condizioni fisiche di Gedeone non gli avessero più consentito di condurre una vita libera in natura. Certo, quel piccione non poteva restare per sempre nella voliera provvisoria. Comunque, qualcosa babbo avrebbe escogitato. In fondo, qualche speranza di recupero, seppur assai flebile, c'era ancora. Stava per iniziare il periodo di convalescenza e di fisioterapia. Sì, tutte le sere Gedeone veniva preso dalla sua casa gabbia e portato al piano terra alla base delle rampe delle scale. Poi, gentilmente, veniva sospinto a saltare di scalino in scalino su per le scale. Questo movimento, oltre a far lavorare i muscoli delle zampe, che ormai erano talmente allenati da consentirgli di correre i 100 metri, lo costringeva ad utilizzare istintivamente anche le ali, pur senza sforzarle troppo. Un bel giorno addirittura Gedeone si fece trovare tutto fiero nel posatoio più alto della sua gabbia, a ben 60 centimetri da terra. Fu allora che a babbo apparve un barlume di concreta speranza di poterlo rivedere nuovamente in volo. Quasi l'avesse percepito, quella sera Gedeone ci sbalordì e non sarebbe nemmeno stata l'ultima volta. Portato come al solito al piano terra, alla base della prima rampa di scale, appena babbo gli si avvicinò per stimolarlo a salire, egli, come è naturale quasi per qualsiasi uccello, ma come non avrebbe dovuto esserlo per lui, egli spiccò semplicemente il volo, portandosi direttamente in cima alla rampa. È stata una cosa emozionantissima, nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo sulla sua ripresa, ed è avvenuto una sorta di miracolo dal punto di vista clinico e veterinario. Perché sia avvenuto ovviamente non lo so, ma sono contento così. E il babbo era felice. Pochi giorni dopo, era un caldo sabato d'inizio estate, il D-Day. La gabbia voliera fu aperta e dopo un po', con calma, l'animaletto uscì, camminando. Passarono poi interminabili minuti in cui il piccione Gedeone continuava ad osservare i dintorni, che peraltro ormai conosceva come le sue tasche, quasi fossero la cosa più nuova e interessante dell'universo. Dopo circa mezz'ora, la massima prestazione del volatile era stata quella di posarsi su un vaso di fiori a circa 40 centimetri da terra. Poi, quando ormai la situazione sembrava nell'impasse più totale, Gedeone improvvisamente decollò. E dopo alcuni giri concentrici intorno alla terrazza e alla casa, partì verso sud. Manteneva una rotta al centro della vallata e dopo poco sparì all'orizzonte, quasi sapesse dove andare. Ecco, la storia potrebbe tranquillamente finire qui, ma come tutte le storie vere, la realtà supera sempre la fantasia. Passarono infatti alcuni mesi e nessuno pensava più a Gedeone quando una mattina d'autunno lui tornò a farci visita. Atterrò sulla sua terrazza come se nulla fosse, come se il tempo non fosse passato. E non era solo. Ma andiamo per ordine. Come faccio ad affermare che fosse veramente lui? Tutti i piccioni di piazza si somigliano, giustamente. Anonimamente grigi, sembrano tutti uguali, tutti identici, tutti simili. No, non lui. Un occhio attento poteva ancora cogliere la sua ala destra leggermente pendente, con l'articolazione ancora un po' gonfia. Per non parlare dell'espressione, ma su questo aspetto non insisto per non essere preso per pazzo. Come dicevo, Gedeone non era solo. Con lui c'era una giovane picciona. Era palesemente una femmina, molto carina. Si vedeva che i due erano una coppia. E giurerei anche che Gedeone stesse sorridendo, anche se so bene che ciò non è possibile. Era tornato per presentarmi la sua compagna. Anch'io sorridevo, quasi commosso, incredulo di quello strano rapporto personale che si era creato tra un umano e un piccione. Di nuovo ci scambiammo uno sguardo. Non potevamo capire l'uno il linguaggio dell'altro, né potevamo certo parlare tra di noi, ma vi assicuro che non ce n'era bisogno. Avevo ancora un sorriso un po' ebete sulle labbra e gli occhi umidi, quando entrambi, all'unisono, spiccarono di nuovo il volo. Anche stavolta sparirono all'orizzonte, verso sud, contro il sole che tramontava. E stavolta non le rividi mai più. Stay with me, stay with you, doing things the lovers do. What else to do? È con sua figlia, immagino, Stefano, nella foto che ci ha mandato e che anche oggi, 1° maggio, trovate sul nostro sito, alla nostra pagina radio24.it, la pagina ovviamente è quella del programma, voi siete qui. Sono tutte e due, uno sulla spalla dell'altro, in questo caso una sulla spalla dell'altro, cioè la bimba sulla spalla ovviamente di Stefano, fanno la linguaccia a chi fotografa, che immagino sia la mamma, e alle loro spalle, evidentemente, Roma, direi il Colosseo. Pronto, Stefano? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, e tu? Bene, bene, ti ringrazio. Sei in questo 1° maggio, sei in giro, sei a casa, stai prendendo... Sono a casa che sto costruendo un recinto, perché cresceremo in famiglia molto presto e quindi arriverà un cagnone, anzi una cagnona, e sto organizzando un po' la mia abitazione in base a questo. Senti, siete al Colosseo, vero, nella foto? Sì. Ok, sì, perfetto, sì. No, perché ci tengo sempre a... Scusami, quindi insomma, visto che oggi la puntata, grazie alla tua storia, è dedicata agli animali, direi che gli animali sono una passione di famiglia. Beh, sì, purtroppo sì, o per fortuna, anzi, dipende dai punti di vista. Lo sono. Che cagnona arriva? Diciamo che la mamma è un meraviglioso con pedigree bovaro del Bernese, certo. Il babbo è sicuramente un cane molto intraprendente che è stato visto solo una notte e poi mai più, per cui sono saltati fuori 15 meravigliosi cuccioloni, ma che assomigliano spero alla mamma, essendo un cane straordinario il Bernese, un po' meno. Speriamo. Al padre che ne ha approfittato al volo. Stefano, senti, questa è una cosa che io non faccio mai, però considerata la tua storia, il romanticismo legato alla tua storia e anche la rivalutazione che tu dai di un uccello che spesso è maltrattato, il piccione, addirittura in alcune città è proprio illegale dare da mangiare ai piccioni, nelle varie piccioni, eccetera eccetera, considerato tutto quanto, dimmi che questa storia è tutta vera, ti prego. Assolutamente vera. Anche il ritorno di Gedeone, anche il ritorno con la compagna. te lo posso giurare su mia figlia, che è la cosa più importante della mia vita. Va bene, tranquillamente. No, non chiedevo tanto, però e comunque mi piace immaginarla così. Allora, innanzitutto spieghiamo per chi magari ha perso dei pezzi. Tu racconti questa figlia abitualmente, scusami, questa storia a tua figlia, che appunto sì, è vera, e quindi il babbo di cui parli sei tu, giusto? Esattamente. Quindi esattamente. Sei tu che hai un negozio di una piccola libreria anche, giusto? Sì, lavoro nel campo dell'editoria specializzata per professionisti e vendo anche libri, sì. E come va il settore? Come va al momento? Benino. Nel 2009 è cambiato il mondo per i motivi che sappiamo, e lo dico sottovoce per scaramanzia, ma in questo inizio 2014 forse qualcosa si muove. Ok, quindi insomma siamo a... dov'è esattamente la tua libreria? Cioè dove abiti? A Bologna, a Bologna. A Bologna. Siamo a Bologna, entra questo piccione con la spezzata e tu ti fai prendere dalla tenerezza infinita, ovviamente. Eh beh sì, io in quel periodo lì tra l'altro studiavo davvero, nonostante lavorassi a tempo pieno, studiavo davvero veterinaria, e questo è un piccolo segreto che i miei datori di lavoro non sanno, ma tanto non lo sapranno mai, okay. E quindi era fatta, quindi a quel punto lì tutto il resto è venuto di conseguenza. Hai detto, ma certo, questo è veramente piovuto dal cielo nel vero senso della parola a questo punto per sviluppare le tue doti. Beh, devo dire che come esame potrebbero darti dei punti per una roba del genere, anche solo presentando la storia, cioè di fatto l'hai rimesso in sesto e l'ha rifatto volare sto piccione. Beh, di grosso l'ha fatto ovviamente il veterinario, che era veramente uno molto famoso nel settore, purtroppo è poi venuto a mancare. Io ho fatto l'operatore, diciamo così, con tanta passione, un pizzico di amore forse, non lo so, è andata bene. Quanto tempo fa succedeva la storia del piccione Gedeone? Parecchio tempo fa, parliamo di oltre 20 anni fa. Ah, ok. Ok, quindi insomma è indietro nel tempo, però quindi non c'era probabilmente ancora tutto questo, diciamo, questa forma di livore nei confronti dei piccioni che c'è oggi. L'altro giorno ero al parco e c'era una signora che dava delle briciole, e un signore è arrivato dicendo: signora, è illegale! E lei ha detto vabbè, e ha buttato comunque tutte le briciole che aveva nel sacchetto. E comunque questa immagine del piccione Gedeone che se ne vola con la compagna verso sud al tramonto è una roba che... ma manco Disney proprio. Ma io non sono bravo a scrivere, e ti dico, ho fatto una foto e un esercizio di memoria, ma una foto della realtà, per cui è stato facile in quel senso. Tua figlia come la vive questa storia? E vuole che la riracconti in continuazione? Beh sì, adesso sta diventando già un pochino più grande, però Gedeone è una delle storie rigorosamente vere che io gli ho raccontato, perché francamente mi ero un pochino stancato di ripetere Cenerentole, Bambi eccetera fino alla noia, e allora ho tinto un po' il mio passato per fare un po' qualcosa di diverso. Poi sai, con i bambini parlando di animali sfondi delle porte aperte, per cui... Ah beh, certo, quello lo immagino. Ci sono stati altri animali, a parte il cane che sta per arrivare, ci sono stati altri animali nella tua vita, oppure è stato... Sì, decine, se non dico centinaia, ma decine sicuramente. Anche adesso abbiamo un gatto, per esempio, che ha una 20 anni e abitava la casa che noi adesso abitiamo prima che arrivassimo noi, quindi sono tutte storie. Tu stai un po' in campagna, giusto? Sì, io abito in mezzo ai peschi, come mi piace dire, a una 60 chilometri da Bologna, in mezzo alla campagna del Ravennate, in un paesino che si chiama Barbiano di Cotignola. Ma scusami, ma non lavori più a Bologna? Non hai... Sì, faccio il pendolare, vado avanti e indietro. Ti fai 60 chilometri al giorno? Sì. In auto? 60, 60 e 60, in auto o in treno a seconda dei giorni, certo. Però io, facendo la gente, sono sempre in giro, per cui... Però, come dicono quelli che vivono lontano dal posto di lavoro, però tornare là la sera non c'è paragone. È come andare in ferie quando arrivo a casa in questi giorni, poi che c'è lo scoppio della primavera, del verde, delle piante, dei fiori. Stefano, ti faccio tornare al tuo recinto per il cane che è in arrivo. Ti ringrazio ancora per la storia, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo a voi. Ciao, presto. Ciao. 349-238-6666. Si parla di animali assurdi, poi in realtà un piccione non è così assurdo. Cioè mia mamma comunque da mangiare ai piccioni sul davanzale, e ogni tanto c'è il davanzale pieno di briciole. Non sono ancora arrivati a mangiare. 349-238-6666. Paola scrive: mi sono affezionata ad un ghiro che stazionava nel camino della casa in campagna dei miei genitori. Era grigio e piccolo, si chiamava Edoardo II, espressamente Edoardo II, quindi evidentemente aveva a che fare con un qualche regno strano. Ringrazio tutti quelli quelli che hanno reso possibile anche la puntata di questo primo maggio 2014, che sono ovviamente Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Hina. Ringrazio soprattutto Stefano per la storia, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Alice, vivo a Roma. La storia di domani è la mia e racconta la maratona di New York. Questa è la mia storia e io sono qui.